America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Let's say how good this plan is. We don't have to talk about this unbelievable victory. Wasn't it unbelievable? So we don't have to say it again. And I think most importantly, yes, premiums will be coming down. Yes, deductibles will be coming down. Donald Trump raggiante! Donald Trump ha vinto in Parlamento, alla Camera, è riuscito a far passare la riforma sanitaria che di fatto abolisce l'Obamacare. Lo avete sentito, dice, questo è un momento importantissimo non solo per gli americani, non solo per quel che gli diamo, consentendo loro di poter pagare di meno per avere l'assicurazione medica, per avere un'assicurazione migliore, ma perché abbiamo recuperato l'unità del Partito Repubblicano. Ecco, devo dire, la giornata è stata in effetti molto importante per Donald Trump. E c'è una cosa che mi colpisce, perché appena un paio di giorni fa Donald Trump era ancora nella polvere e c'era la ricorrenza dei 100 giorni. Lui negava che questi 100 giorni fossero importanti. Perché? Perché non aveva concluso granché, era sbeffeggiato nei programmi televisivi serali. Sentiamo Steve Colbert, perché c'è stata molta polemica questa trasmissione di Steve Colbert al Late Night Show. Sentiamo. The head of a major company. The person came into the Oval Office and started to cry. Mr. President, if I came to the Oval Office and saw you sitting behind the desk, I'd cry too. Ecco, Steve Colbert fa vedere un'intervista di John Dickerson alla Casa Bianca e si vede John Dickerson che conduce il programma Face the Nation, che intervista per i 100 giorni Donald Trump, e Trump che gli dice, ma guarda, questo ufficio ovale dove noi siamo è veramente straordinariamente importante, ha una forza emotiva straordinaria. Pensa, dice, che un personaggio importantissimo del mondo degli affari, un uomo durissimo, che tutti conoscono naturalmente, non dirò il nome, è entrato qui nell'ufficio ovale, l'ho accolto, l'ho salutato e si è messo a piangere. Ecco, tutti sono rimasti un po' paralizzati, paralizzato anche Colbert, il quale dice, beh, certo, caro presidente, caro signor Trump, anch'io mi sarei messo a piangere se entrando nell'ufficio ovale avessi visto che dietro la scrivania c'era seduto lei. Ecco, questo è un oltraggio, in effetti, molti erano scontenti, ci sono state battute ancora più dure da parte di Colbert, c'è stata molta polemica attorno a quella trasmissione, qualcuno ha chiesto le dimissioni addirittura di Colbert. Però la politica è questo, il giorno prima si è nella polvere, il giorno dopo sugli altari. Sentiamo Trump sull'altare della vittoria alla Camera. It's going to be an unbelievable victory actually when we get it through the Senate and there's so much spirit there, but I said let's go out, we have a little list of some of the people. Ecco, Donald Trump ottimista, perché dice, beh, non soltanto oggi un giorno importantissimo anche per il partito, perché siamo finalmente riuniti, ma perché andremo avanti e sono convinto, davvero convinto, che ora questa legge passerà anche in Senato. Non è detto. Molti senatori sono contrari. I punti deboli di questa riforma riguardano soprattutto il fatto che coloro che hanno già delle malattie preesistenti non potranno ricevere un'assicurazione paritetica rispetto alle persone che non hanno malattie preesistenti e dunque rischiano di pagare molto di più. Si è cercato di fare una compensazione finanziaria, sono stati raccolti alla fine, dopo che erano già stati stanziati 120 miliardi di dollari da distribuire agli stati per poter fare delle compensazioni su queste persone che avevano, diciamo così, delle difficoltà, sono stati aggiunti 8 miliardi. Ecco, al Senato molti repubblicani hanno detto che questo non basta e dunque o la legge sarà modificata oppure rischierà di essere bocciata di nuovo. Ma al di là delle polemiche, dobbiamo prendere atto che ieri è stata la giornata della celebrazione. La vittoria di Donald Trump in Parlamento per abolire Obamacare va molto al di là della promessa elettorale realizzata, finalmente una promessa elettorale realizzata di riformare, cioè la sanità. Va anche ben oltre il desiderio settennale del Partito Repubblicano di combattere e smantellare una legge federale che secondo la base del partito prevaricava i diritti e i doveri del governo a danno dei singoli stati. Poco importa alla fine nella capitale se questi 24 milioni di americani rischiano davvero di restare senza assicurazione o se altri milioni di persone con malattie preesistenti avranno difficoltà a rinnovare la polizza. Qui, con la vittoria di giovedì pomeriggio, Donald Trump si è liberato di un incubo, dell'incantesimo che bloccava un voto che il presidente era convinto di avere in tasca ma che non riusciva a concretizzare. E questo per le resistenze all'interno del suo stesso partito, per quei 33 irriducibili repubblicani determinati ad andare fino in fondo perché consideravano la riforma troppo blanda. Ecco, con il voto di ieri Donald Trump ha affermato la sua prima vera importante vittoria politica a Washington, perché chiaro ha già vinto le elezioni, ma vittoria politica politica da presidente. Questo è importante perché spianerà per lui la strada per l'introduzione del pacchetto di investimenti infrastrutturali e perché ha creato un consenso di fondo su cui potrà cercare di far leva coi democratici per far avanzare il progetto di riforma fiscale. In sostanza, Trump da oggi può guardare in avanti con maggiore padronanza della situazione. Sentiamolo ancora. This has really brought the Republican Party together. As much as we've come up with a really incredible healthcare plan, this has brought the Republican Party together. Ecco Trump che dice: il risultato che abbiamo ottenuto ha riunificato il Partito Repubblicano. Abbiamo molti gruppi tra le nostre fila, ma questo successo ha rafforzato i legami interni al partito. Ecco, abbiamo visto Trump finalmente rilassato, sorridente, padrone della situazione. Proprio lì nel Giardino delle Rose era anche una bella giornata quando è stato accolto dall'applauso della leadership del Congresso e da buona parte dei deputati repubblicani. Insomma, Trump, che era partito impulsivo, spaccone, ha dimostrato dopo due durissime sconfitte e altre sconfitte anche, perché abbiamo visto anche quelle sulla legge per l'immigrazione, di aver imparato la lezione. Washington e la politica richiedono pazienza, un lavoro tenace dietro le quinte per creare una maggioranza, richiedono la necessità di concessioni laddove necessario. Ha rinunciato per esempio al finanziamento del muro per la legge di bilancio. Ecco, è l'immagine stessa che abbiamo visto nel Giardino delle Rose, è l'immagine dell'unità, proprio come ha detto Donald Trump, dell'unità del partito. Vi dicevo, qui non entro nella sostanza della riforma, ne abbiamo parlato prima, ma di certo con questo voto Trump, pochi giorni dopo essere stato sbeffeggiato, come abbiamo sentito con Colbert, per aver compiuto 100 giorni di presidenza senza nulla di fatto, ha gustato per la prima volta il vero piacere della vittoria. E su un punto devo dire ha avuto ragione, perché dice: abbiamo creato un legame oggi che terrà saldamente unito il nostro partito. Forse sì, forse no, ma questo importa poco guardando in avanti, perché ieri in effetti è successo e sappiamo quanto importante sia per Trump avere sempre la conferma nei fatti delle sue aspirazioni. Ha poca pazienza, è capriccioso, e forse ieri, avendo capito come si può vincere a Washington, Trump ha anche superato quei limiti che gli hanno impedito finora il passaggio da capo di un movimento a statista. Forse, come si dice, la presidenza degli Stati Uniti la si impara solo sul lavoro ed è solo questione di tempo. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione e apre come sempre una nuova frontiera inesplorata. Potrete continuare a trovarli su americ4.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, la dedichiamo alla prima vera vittoria dei repubblicani. Vittoria alla Camera, il resto importa poco. Bob Dylan, Path of Victory, percorsi di vittoria. Trains of troubles, roads of battles, paths of victory I shall walk. The trail is dusty, it might be the road, it might be rough, but the better road's waiting, and boys, it ain't far off. Trails of troubles, the roads of battles, paths of victory we shall walk. I walk down by the river, I turn my head up high, I saw that silver lining that was hanging in the sky. Trains of troubles, roads of battles, paths of victory we shall walk. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!